Hodge, la sua voce e la sua chitarra, con le note di questa Rocky Mountain Way. 11:37, cedo volentieri anche per quest'oggi il passo alla rubrica Backstage Pass, aneddoti da tutto il mondo del rock and roll, come sempre raccolti appunto in giro per il mondo dal nostro e vostro Chuck Bird.